fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, nonostante l'ora tarda, non ci arrendiamo, abbiamo ancora voglia di divertirci e soprattutto di andare a conoscere ulteriori protagonisti e protagoniste, in questo caso di un altro sabato dinner and dance qui al convento di Lonato. Allora, abbiamo una ragazza qui con noi che stiamo anche riprendendo con le nostre webcam, ragazza importante, direi importante anche già dal nome, perché è un nome non usuale e molto molto bello. Allora vai, presentati, raccontaci un po' cosa ti porta qui da noi stasera. Ciao, mi chiamo Diana e mi hanno portato qui da voi stasera le mie amiche. Benissimo. Per il mio addio al nubilato. Oh, bene bene, quindi ti sposi, dici un po' con chi e quando? Allora, mi sposo con un bellissimo ragazzo che si chiama Alberto il 15 giugno di quest'anno. Bravo, bene, mi fa... C'è dell'invidia, c'è un po' di invidia. Mi fa piacere che tu abbia specificato il bellissimo ragazzo prima del nome, quindi sembra una caratteristica importante. Dici? Ci vuole. Sì, ci vuole. Un po', ci vuole un po', ci vuole anche altro, però. Ci vuole, un po' ci vuole. Dai, cosa ti ha colpito di lui? Al primo così subito. Beh, nel senso, diciamo, c'è una popolazione mondiale abbastanza ampia e vasta, quindi perché lui? Perché proprio lui? Ma beh, direi bene, ti ricordo che state per sposarvi, quindi in teoria, se Dio vuole, è per sempre. No, quindi per me è la persona, è la persona perfetta per me. Cioè, sì, stiamo bene, abbiamo caratteri strade compatibili. Ah, compatibili, mi piace. Però dicevi, ti ha colpito gli occhi e le mani. Io quando l'ho conosciuto gli ho guardato subito gli occhi. Lei è disperata perché dice: cavolo, il mio c'ha dagli occhi le mani che fanno schifo. Sono delusissima. Anch'io stavo pensando all'incastrare. Infatti stavo pensando al Tetris, al puzzle, a tante belle cose. È stata più delicata. Sì, sì, ci sta. Compatibili, compatibili. E come mai sei andata a vedere gli occhi e le mani? È una tua consuetudine osservare questi dettagli o...? No, perché all'epoca quando l'ho conosciuto facevo la... Aveva ancora le mani adesso. Visto che una volta che ti ha colpito, ho detto vabbè, le metto via, le lascio, tanto ormai l'ho colpita, sono a posto così. No. Lavoravo in un bar e quindi la prima cosa che vedi è vabbè, il fisico e le mani, perché ti pagava il caffè. Giusto, perché giustamente uno dice: guarda, mi fai un espresso e un buon latte macchiato, così con le mani, con le... Cioè, guarda che mani che ho, guarda che mani che ho. E come mai? Perché come erano? Grandi, curate? Cioè cosa... Belle, grandi, curate. Belle, grandi, ma cosa fa nella vita, posso chiedere? Il bancario. Ah, beh, tanto di solito le mani grandi sono quelle di uno che lavora appunto, non so, falegname o comunque sia un artigiano, ecco. Invece no, proprio tutt'altro, lavoro d'ufficio. Eppure ti hanno colpito queste mani. Gli occhi e le mani. Ecco, perfetto. Quando noi parlando anche dopo un po' di caratteri. Meno male, se no avresti avuto a guardarlo sempre con le mani, sempre così. Bello, bello, almeno no, mi fa piacere che poi ci accusano sempre noi uomini di guardarvi sempre una parte particolare del corpo. Invece mi fa piacere che almeno al primo dialogo tu guardavi, lui parlava e tu fissavi sulle mani. E tu lo fissavi sulle mani e dicevi: boh, cosa avrà sta qua a guardarmi le mani? E invece era una cosa buona e positiva, ecco, diciamo così. Allora, a proposito di compagnia, vedo che qui ce n'è parecchia, sì, di nero e di rosa vestita. Esatto, sono le mie amiche. Che ricorda, tra l'altro, vabbè, non c'entra nulla con la zona di Carpi, però anche il rosa di una festa molto importante della vostra zona, Riccione, no? Che va forte, va forte. Allora, le tue amiche, quindi dai, raccontaci un po' chi sono. Allora, io le conosco da quando eravamo ragazzine, a 10 anni circa. Ah, quindi da proprio tutte di vecchissima anni. Data. Ormai sono quasi 18 anni che ci conosciamo. E pensate che in questi 18 anni per la cura delle mani hanno speso una valanga di soldi, pur di rimanere amiche della nostra futura sposa. E mi hanno accompagnato stasera in questo addio nubilato. Sono state fantastiche. C'è bene. Una realizzazione così. Sì, addirittura. Cos'è? Un tour operator? Cosa più o meno. E come mai? No, dici cosa c'è di speciale in questa organizzazione. Allora, mi hanno rapito stamattina a casa. Sì. E mi hanno fatto fare una valigia in 10 minuti, credo. Sì. Insomma, mi hanno fatto. Vabbè, lo stretto indispensabile. Poi non mi hanno fatto vedere dove andavamo, mi hanno portato in mezzo alle colline, mi hanno fatto fare canyoning. Ah, canyoning. Ma dove? Dove? Diteci un po'. Valle dell'Orso. Boh, mai sentita, mi informo. Ah, Montebaldo, certo, Montebaldo. Tra l'altro bellissima zona anche da visitare. Sì, ma è normale. Non ti preoccupare. Penso che quel vetro abbia ricevuto più baci di tutte voi messe insieme nella vostra carriera amorosa. Ok, quindi poi dopo il canyoning, bagnate e avventurose. Aperitivo naturalmente. Sì, sulla canoa, no. Ah, da un'altra parte. Ho fatto una bella doccia calda perché abbiamo preso okay. un freddo atomico. Immagino, immagino. E poi. Ma canoa una sola? No, niente canoa. Ci si cala giù fra i ho capito, ho capito. Torrentismo. Sì, ok, capito. No, pensavo fosse una roba tipo rafting e quelle cose lì. Ma è bello quello, molto interessante. Ok, qui aperitivo e poi festa qua. E poi mi hanno vestito in questo modo carino. Dai, guarda che ne ho vista di peggio. Ti dico che, insomma, ti è andata anche molto bene. Ti è andata anche parecchio bene. Allora, dai, le amiche da una vita ce le vuoi anche presentare? Vuoi dire qualcosa di loro? Allora, partiamo da destra. Sì. Dalla mia destra. Stavo guardando anch'io le mie mani come erano. No, no, giusto, è lei all'estrema destra, giusto, giusto? Destra. Vabbè. Lei? Sonia. Partiamo da lei. Sonia, Serena, Martina, Giulia, Martina, Ambra e Gaia. Oh, bene, bene, bene. Dicevi di vecchia data, ma proprio dai tempi delle scuole. Abbiamo iniziato, ci siamo conosciute a quando eravamo ragazzine, abbiamo iniziato il lavoro. Ah, tutte giocatrici? C'è qualcuna che ancora frequenta o avete mollato? Veramente tutte. No, brave, brave. Tranne tre. E che sono? Erano le più scarse, veramente, le hanno. Selezione naturale. No, scherziamo. Mai iniziato neanche. Ah, vabbè, venivano a fare tifo le ragazze pomponi. Le ragazze pomponi. Bello, bello, dai. Quindi riuscite comunque a conciliare. Lei, un paio di idee che non facesse scacchi le avevo avute, perché diciamo che piccolina non è. Loro due... pari, sono più o meno pari, tu anche tu te la cavi, quindi diciamo che un paio di idee le avevo avute. No, beh, si vede che siete atletiche e, come dire, sportive. Anche loro due fanno pallavolo, Sì, beh, ma sono anche le più forti. Nel senso, c'è l'altatrice, c'è il libero, quindi comunque non è necessario essere molto molto alte per giocare. Ma giocate ancora insieme? Siete riusciti anche a mantenere la squadra? No, quello no. Abbiamo lasciato, io ho lasciato ad esempio, e invece loro due giocano insieme e loro due. No, ok, no, perché di solito si procede più o meno per età, no? Quindi si riesce a mantenere. Sì, vabbè, no, poi è incerta, giustamente. Vabbè, a meno che diventi veramente forte, se no, giusto anche. Smettere di fare altro. Sì, intanto salutiamo questo ragazzo che ci sta mandando messaggi di un certo livello. A proposito di ragazzi e uomini, vuoi mandare un saluto al tuo, magari? Vuoi dirgli qualcosa? Allora, vorrei dirgli che lo saluto tanto. Tanto di le mani, prima di tutto. Cioè, che se ancora non se le lavate è il momento di farlo, perché sia mai che le roviniamo. In una teca, io me le immagino in una teca di cristallo, sai la rosa della Bella e la Bestia, no? Uguale, così dentro, e lui dorme lì con le mani nella teca per non rovinarla. No, in realtà no. No, ok, scusa, non ti interrompo più, promesso. Stanno succedendo cose incredibili qui, neanche una pièce di teatro è così interessante e variopinta. Ne hanno inventato un'altra, eccoli qua. Questi li paghiamo noi, sì, no, sono intrattenitori ufficiali, fanno delle tournée in giro per il mondo così. Vedi, poi costano poco perché non hanno bisogno di niente, cioè costumi, sono vestiti come loro, gli basta solo un piano in cui nascondersi e loro sono fantastici. Dai, adesso non ti interrompiamo più, promesso. Anche loro faranno un'altra performance. Vai, digli pure qualcosa. Vorrei salutarlo tanto e dirgli che mi sto divertendo un casino e che non vedo l'ora che sia 15 giugno. Oh, bene, bene, brava. E però vorrei anche vorrei dire un grazie alle mie fantastiche, giusto, certo, amiche, che mi hanno organizzato la cosa più bella del mondo. Quella! Bello, anche perché si percepisce la sincerità e quindi no, è bello, è veramente toccante. Voi volete dire qualcosa alla vostra futura sposa? TVB, è tornata ancora ai tempi delle medie quando ci si mandava i bigliettini. Sì, quante T abbiamo sprecato nel B, nel TTB. Bene, allora, grazie mille ragazze per essere state con noi, grazie ai nostri, come dire, teatranti, performer che ci hanno fatto divertire e soprattutto grazie a lei per un futuro matrimonio davvero felice e sereno, ma siamo certi che sarà così, e loro per aver organizzato, a quanto sembra una giornata davvero da ricordare. Ragazzi, a presto, auguri ancora. Vivi.